Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, dunque siamo in pieno lockdown, chi più chi meno, e quindi anche le difficoltà a fare le proprie funzioni lavorative stanno aumentando e quindi questo ci riporta al centro di un tema che ci sta preoccupando tutti molto, il tema del lavoro, come lavorare e se si potrà continuare a lavorare nel modo in cui l'abbiamo fatto fino adesso. In particolare si discute molto di questo smart working, del lavoro a distanza, di tutte le polemiche che questo sta suscitando e dell'impatto che esso può avere sui rapporti sociali, sull'economia, sulla stessa urbanistica e sul ruolo delle città. E ci parla di questi temi Marco Bentivogli, già segretario metalmeccanico della CISL, l'autore di Indipendenti, guida allo smart working, pubblicato da Rubbettino, 204 pagine, 15 euro, che nel libro indica il lavoro a distanza anche come una grande opportunità. Bentivogli infatti è convinto che il lavoro non può tornare alle condizioni pre-Covid. Lo smart working non è una vacanza e anzi rappresenta secondo lui un autentico diritto, nel senso che ci deve indirizzare, scrive, a riprogettare il lavoro ben pensato che rispetti le esigenze dei lavoratori, soprattutto in un mondo in cui la creatività e l'iniziativa di questi ultimi diventeranno elementi essenziali. Per questo non bisogna avere paura delle macchine, ma occorre lavorare insieme imprese e sindacati per rendere possibile questa coesistenza, per dare spazio ai lavoratori per una nuova e più efficiente gestione dei tempi. E su questo appunto scrive che occorrerà consentire una maggiore flessibilità delle variabili organizzative del lavoro e con questo lo smart working potrà aumentare la soddisfazione personale e di conseguenza anche la performance individuale dell'organizzazione e la sua interezza. E di questo adesso parliamo con l'autore. Buonasera Marco Bentivogli. Buonasera. Marco Bentivogli, nel suo libro lei parla dello smart working come un libro. La cito: agire in difesa dell'esistente non ci sta più bene, il diritto allo smart working e a riprogettare il lavoro ben pensato, costruito a partire dalle esigenze delle persone, lungimirante perché collegato a obiettivi di lungo periodo, non è più rinunciabile. Quindi un'affermazione molto netta che lei mette in contrapposizione anche con quella che definisce la narrazione di giornalisti pigri e ideologici che genera spaesamento e disorientamento, nonché ansia e paura del nuovo. Quindi ci sono due visioni del mondo, qual è la posta in gioco in questo conflitto? Ma la posta in gioco prima del Covid era perdere un'opportunità, oggi è mancare una necessità fondamentale di centrare obiettivi di umanizzazione del lavoro, di maggiore possibilità di realizzazione, di conciliare meglio il lavoro con la vita di ogni persona, di rigenerare il tessuto urbano, ripensare le città, ripensare le aree interne e soprattutto fare in modo che i nuovi bisogni sociali emergenti, noi non dimentichiamoci che abbiamo una natalità bassissima e il raddoppio degli ultraottantenni, solo con un lavoro che fa meno la guerra all'organizzazione dei tempi della propria vita può stare in piedi. Lei nel libro elenca e affronta quelli che possono essere gli elementi critici in questo passaggio, quali sono quelli principali? Ma il principale è non capire la differenza sostanziale tra smart working e telelavoro. Il telelavoro è lo stesso lavoro che si fa in ufficio, in azienda, spostato a casa, con le stesse regole sostanzialmente. Lo smart working è un lavoro completamente rivoluzionato, e cioè diventa un lavoro per obiettivi che non ha orari precisi, diciamo scanditi esattamente come avviene in ufficio, ma si lavora con una maggiore autonomia e libertà di gestione da parte del lavoratore in cambio di una maggiore responsabilità e fiducia di costruire i percorsi per raggiungere gli obiettivi. Lei ha accennato poco fa al tema delle città, al quale il suo libro dedica un capitolo. Ecco, questo aspetto dell'abolizione o della riduzione degli uffici è uno degli aspetti che più preoccupa chi si occupa di città, magari anche molti sindaci sono preoccupati da questo punto di vista. Come possono cambiare le città? È necessariamente un cambiamento positivo o ci sono anche delle preoccupazioni? Ma io in realtà non comprendo molto le preoccupazioni dei sindaci, voglio dirlo con chiarezza. Innanzitutto cambiamenti degli spazi nei luoghi di lavoro sono fondamentali, vanno superate le palazzine direzionali all'oculi che crescono di dimensione in funzione del ruolo che si ha in azienda, e bisogna invece ricostruire degli spazi che servano ai giorni in cui si rientra in azienda per fare in modo che gli spazi siano forieri di socialità, di capacità di coordinamento, di costruzione di strategie per cui favoriscano il lavoro di gruppo, lo stare insieme nei momenti in cui si rientra appunto quel giorno a settimana, quei due giorni, così come sono codificati. Le città, ovviamente le città cambiano ogni 5-10 anni e la grande preoccupazione per la riduzione di affari degli esercizi commerciali del centro non ha trovato altrettanto disappunto quando, grazie purtroppo a un pendolarismo inquinante e disumano, si sono desertificate le periferie anche di esercizi commerciali e molte aree interne che sono diventate dormitori. Ecco, io credo che non sia difendere quell'esistente, cioè difendere città intasate, inquinate e disumane, non sia assolutamente da amministratori moderni delle città. Uno degli aspetti più problematici è legato al controllo dei lavoratori, in particolare nella pubblica amministrazione. Cosa ci può dire su questo? In realtà il controllo è un falso problema. Il controllo delle persone avviene già oggi attraverso le reti internet, in fabbrica attraverso le reti SAP. In realtà quello che sì viene in trasparenza con lo smart working è il contributo di ogni lavoratore, per cui contrariamente a quello che dicevano, guardate, lo smart working serve per gli imboscati, in realtà con lo smart working si vede di più qual è il contributo di ognuno, per cui c'è molta più trasparenza. È ovvio che bisogna fare in modo che non ci siano invece spyware e altri algoritmi all'interno delle reti di connessione che controllino altre cose che non riguardano il lavoro, ma su questo bisogna sottoscrivere con le aziende dei precisi accordi, anche perché sarebbero illegali. Lei ha identificato 5 ingredienti per governare questo processo: visione, fiducia, libertà, responsabilità e autonomia. Qual è il più difficile da gestire? Ma in realtà è la fiducia, è ricostruire una reciprocità sul lavoro fatta non più dello scambio prestazione con salario, per cui attività lavorativa in cambio di salario, ma un progetto di reciprocità fatto sulla base di fiducia che riguarda progetto di lavoro e benessere della persona. È chiaro che il salario è dentro il benessere della persona, ma non basta, serve uno scambio molto più ricco che riguarda la formazione, il welfare e il benessere delle persone. E la fiducia dovrebbe riguardare, lei scrive, anche l'innovazione tecnologica, superando molte preoccupazioni un po' millenaristiche che corrono, per esempio, relativamente alle nuove reti. Assolutamente, noi abbiamo, basta vedere quello che sta accadendo con Immuni, abbiamo un popolo in cui dopo tanta insistenza siamo arrivati a 9 milioni di accessi, in un paese in cui 47 milioni di italiani hanno WhatsApp, che garantisce un controllo molto meno trasparente e molto più invasivo di quello che riguarda Immuni. Però su WhatsApp nessuno fa problemi, su Immuni, che in realtà invece, oltre che scambiarsi messaggi, preserva la nostra salute, abbiamo cercato, perché siamo diventati tutti vestali della privacy, e in qualche modo abbiamo boicottato questa cosa che invece è di straordinaria importanza. Grazie a Marco Bentivogli, autore di Indipendenti, guida allo smart working. Buona serata. Grazie, buona serata a voi. Naturalmente la premessa del ragionamento è l'innovazione tecnologica, la sua diffusione e in particolare lo spazio che il digitale e l'intelligenza artificiale conquisteranno in tutti gli ambiti. Un'introduzione a questi temi, continuamente sottoposti a un'evoluzione senza tregua, è il libro curato da Stefano Quintarelli, esperto di comunicazione informatica, Intelligenza artificiale, cos'è davvero, come funziona, che effetti avrà, pubblicato da Bollati Boringhieri, 138 pagine, 16 euro, che affronta i vari aspetti dell'intelligenza artificiale trattati da vari autori: Francesco Corea, Claudia Giulia Ferrauto, Fabio Fossa, Andrea Loreggia e Salvatore Sapienza, i quali ci presentano gli aspetti più importanti e quelli che più preoccupano l'opinione pubblica, per esempio appunto l'impatto distruttivo che l'intelligenza artificiale avrebbe sul lavoro, dove verrebbero messi a rischio molti milioni e milioni di posti di lavoro, per arrivare a uno sbocco fatale, cioè la fine stessa del lavoro, una notizia che il libro considera grossolanamente esagerata. E poi si parla di applicazioni in generale, di controllo attraverso l'intelligenza artificiale, di etica, di responsabilità e perseguibilità dell'intelligenza artificiale e del modo in cui affrontare e governare un fenomeno perché non ci scappi di mano e possa produrre esclusivamente i benefici per cui è stato sviluppato. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen. I'm not going to give you a question. You are fake news. أمام الملأ بسبب نشر مقال عن لقاء الرئيس الفرنسي. L'attualità internazionale vi sembra difficile e incomprensibile? Beh, forse avete ragione. Eventi apparentemente lontani, conflitti a bassa intensità, guerre commerciali, tutti fatti complessi che cercheremo di spiegarvi quotidianamente. Sono Giampaolo Musumeci e per capire ciò che accade nel mondo vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24 con Nessun luogo è lontano. L'attualità internazionale raccontata per bene. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Questa signora che rientra a casa costeggiando il muro dell'antico palazzetto patrizio è un'attrice romana, Anna Magnani, che potrebbe essere anche un po' il simbolo della città. Che so io? Una Roma vista come lupa e vestale, aristocratica e stracciona, tetra, buffonesca. Potrei continuare fino a domattina. Ma Federì, va a dormiva. Posso farti una domanda? No, non mi fido, ciao. Buonanotte. Anna Magnani e Federico Fellini ci hanno accolto perché parliamo di un libro sul film dal quale questo brevissimo ma emozionante dialogo è tratto. Roma, il film del 1972 del grande regista, al centro dell'attenzione di uno storico del cinema all'Università di Roma, Andrea Minuz. Il libro si intitola Fellini, Roma, è pubblicato da Rubbettino, 170 pagine, illustrate, 12 euro. Roma non è forse tra i film più visti di Fellini, anche perché schiacciato dal successo planetario che arrise l'anno successivo ad Amarcord. Della città, della capitale, Fellini ci dà un ritratto impietoso, come spiegano queste righe. 10 anni dopo il bagno di Anita Ekberg e Marcello Mastroianni nella Fontana di Trevi, Fellini trascina lo spettatore in una città irriconoscibile, cupa, claustrofobica, eppure sempre uguale a se stessa. Roma non è un omaggio affettuoso o un album di ricordi o una cartolina nostalgica. Ci sono, al contrario, i tratti più mostruosi e sgradevoli dei suoi abitanti, il caos ripugnante di facce, voci, rumori di una città che all'inizio degli anni 70 si sta trasformando in un magma metropolitano fuori controllo. E il libro, più che parlare del film, vuole riprendere i discorsi sul mito e sul disfacimento di Roma, così l'autore. Lo fa ripercorrendo genesi e svolgimento del film in brevi capitoli che ci presentano il clima culturale dell'epoca, compreso quello nei confronti di Fellini, visto ormai già in quegli anni con ostilità per la parte più politicizzata della controcultura italiana. E poi ci presenta anche gli atteggiamenti e i sentimenti diffusi nei confronti della capitale. E a questo punto il confettino. Federico Fellini troviamo in un libro per ragazzi, Giulietta e Federico, di Federica Iacobelli, illustrato da Pat Cooper, è pubblicato da Camelo Zampa, 48 pagine, 15 euro. Il libro, il cui titolo parafrasa quello di un altro celebre film, Ginger e Fred, trasforma in una fiaba il leggendario rapporto di lavoro e d'amore tra i due grandi artisti che ci lasciarono poi a 5 mesi di distanza l'uno dall'altro. Restiamo nella Roma più o meno di quegli anni, arretriamo al 1964 in realtà, per parlare di un delitto che mise a nudo aspetti inquietanti e morbosi della città, il famoso caso Bebaui, ricostruito nel libro di un importante magistrato, Francesco Caringella, che dopo essere stato commissario di polizia e magistrato penale, attualmente è presidente di sezione al Consiglio di Stato e presidente della Commissione di Garanzia presso l'AGCOM, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il libro si intitola Il delitto della dolce vita, è pubblicato da Mondadori, 268 pagine, 18 euro, e ricostruisce questa storia vera di un delitto che scosse molto l'opinione pubblica, quello di un giovane imprenditore egiziano ucciso e sfigurato nei pressi di Via Veneto, che allora era il centro della dolce vita, e da vivo la vittima al centro di una vita mondana molto brillante e movimentata. I sospetti cadranno subito su due coniugi suoi connazionali, Claire e Youssef Bebaoui, che avrebbero entrambi potuto avere un movente per il delitto, e subito proclamati dai media e dall'opinione pubblica la coppia diabolica. Ne scaturì una serie di processi che fecero epoca, anche perché si scontrarono spesso autentici principi del foro, per esempio in primo grado Giuliano Vassalli, che difendeva lui e che sarebbe stato poi ministro e giudice costituzionale, e Giovanni Leone, che era già stato presidente della Camera, sarebbe diventato presidente della Repubblica e difendeva lei. Il processo del secolo, lo definisce Caringella, che di questo fa il perno del suo libro. Se i sospetti erano entrambi per l'accusa, non fu altrettanto facile dimostrare chi avesse materialmente ucciso la vittima, e su questo avrebbe proprio fatto leva Leone, che nel processo d'appello riuscirà a far assolvere i due per insufficienza di prove. Il libro si chiude qui, prima del definitivo epilogo della vicenda in Cassazione, che avrebbe poi condannato i coniugi che però erano fuggiti all'estero. Insomma, è una storia vera e il libro si presenta come un appassionante romanzo giudiziario che ricostruisce puntualmente un clima e un'epoca e soprattutto il meccanismo dei grandi processi e le reazioni dell'opinione pubblica appassionata e tifosa. Una Roma ancora più cupa e disfatta troviamo nel libro di Nicola La Gioia, La città dei vivi, pubblicata da Einaudi, 466 pagine, 22 euro. La Gioia ricostruisce qui un altro episodio che ha fatto inorridire molto più di recente tutti. Questo avveniva nel 2016 ed è il caso del giovane Luca Varani, che venne ucciso dopo una serie di sevizie e di crudeltà varie dopo essere caduto nelle grinfie di altri due ragazzi, Manuel Foff e Marco Prato, l'ultimo dei quali morto poi suicida in carcere. La vicenda ce la ricordiamo tutti, è inutile entrare nei particolari. Del resto La Gioia, che ha scrupolosissimamente compulsato verbali e carte processuali, ma soprattutto parlato a lungo con protagonisti e con primari, raccolto testimonianze, scritto e ascoltato, preme soprattutto mettere a nudo i meccanismi che portarono i giovani, due giovani di buona famiglia, ancorché deboli, inclini alle sostanze, privi di prospettive di vita, incerti in certi casi sulla propria identità sessuale, con indifferenza a perpetrare un delitto così spaventoso, un metodo letterario che ha fatto evocare quello usato da Truman Capote per il suo capolavoro A sangue freddo. Sullo sfondo della loro vicenda, la città Roma, sporca, decadente, viziata, almeno così ci appare nelle pagine del libro, che si apre con una simbolica scena un po' felliniana, un po' granghignolesca, ambientata nella biglietteria del Colosseo. Ma il finale cerca di dare un sollievo affidato a un turista olandese che fa da comprimario nella trama, venuto a Roma per cercare conforto sessuale e che, guardando dall'alto dell'aereo la città, tornando a casa, vi riconoscerà, lo cito, l'eredità del mondo che ti regala molto di più di quello che chiedeva in cambio. E sentiamo dal libro il clima intriso di violenza diffusa e mediocre nel quale matura questa incomprensibile esplosione di crudeltà. Contando gli omicidi che si commettevano a Roma, si sarebbe detto che non era una città così pericolosa. Era violenta sul piano psichico. Muovendosi tra i suoi immensi municipi, si respirava un'aria tesa, rabbiosa, capace di ispirare nei più balordi una condotta scriteriata e al tempo stesso la resa totale. Sembrava che perfino la violazione della legge non puntasse a sovvertire l'ordine, ma a ribadire un grottesco ristagno. I reati consumati negli ambienti criminali spandevano un'aria di dissesto generalizzato. I delitti tra coniugi trasudavano impotenza. Negli omicidi tra consanguinei, padre uccide figlio a fucilate, fratello prende sorella a colpi d'ascia, ribollivano rancore e frustrazione. Quella sera però, al decimo piano di via Egino Giordani, sembrava che tutta la disperazione, il livore, l'arroganza, la brutalità, il senso di fallimento di cui era piena la città, si fossero condensati in un unico punto. Il libro di Minuz sulla Roma di Fellini si conclude con un confronto tra Roma e Milano, impietoso in quel caso per la città lombarda, e da un confronto tra Milano e il resto d'Italia parte il libro di uno scrittore romano, Edoardo Albinati, che lascia letterariamente la sua città per approdare in una città del nord che, senza essere nominata, è chiaramente Milano e di cui lo scrittore ci dà questo ritratto. La città è posseduta fino alle fondamenta da una specie di ossessione per il realismo, per l'ideologia del realismo. Il realismo è una superstizione che entusiasma e accende le menti. Sui vapori azzurrini galleggia e scintilla un imponente miraggio, il realismo, irto di punte e pesante come pietra, eppure veleggia nell'illusione. Si potrebbe quasi dire un realismo mistico. Tanta è la sua tensione sovrumana. Lo sforzo astratto del realismo, il suo slancio visionario, sì. Qui non si fanno sogni, non si fanno sconti, non si ciancia a vuoto, non si perde tempo, non si mena il camperlaia, non ci si balocca, non ci si trastulla. Non ci si prende in giro, non si spreca a danè, non si vende fumo, non si macina l'acqua, non si fa politica da quattro soldi nella bella vita, non si va a spasso, non si ubriaca il pallone né il mazzo di carte da briscola, ma si bada al sodo. La ricerca di cosa sia questo sodo a cui badare non si esaurisce nell'identificarlo banalmente col denaro. Oh no, sarebbe troppo semplice credere che per gli abitanti di questa città sia il denaro il fondamento di tutto. Il denaro è troppo volatile per poterlo immaginare come il sodo del mondo. Ci deve essere qualcosa di ancora più concreto del denaro. Il realismo diventa allora l'appassionata ricerca di questo zoccolo, di questo minerale in cui è scolpita la città. È un ritratto applicato a una Milano, peraltro ancora industriale, che si apriva negli anni Ottanta alle lusinghe della moda. Queste righe sono tratte dalle prime pagine del libro di Albinati, l'ultimo romanzo, Desideri deviati, amore e ragione, pubblicato da Rizzoli, 416 pagine, 20 euro, dove ritroviamo, approdato appunto a Milano, Nico Kell, protagonista di un precedente libro di Albinati, Cuori fanatici. Come dicevo, siamo negli anni Ottanta, la città è in piena trasformazione, sta cambiando pelle, soprattutto cambiano le aspirazioni di tutti, scrive Albinati. Allungandosi all'improvviso, le prospettive dei viali suggerivano una frenesia non solo di lavoro, non esclusivamente legata alla sopravvivenza, bensì un'atmosfera di gioco e fatalità, come se quei vialoni fossero elastici tirati per scherzo da ragazze su di giri. L'erotismo svelò in pieno il suo carattere di promessa. Nient'altro che di promesse scintillanti si nutrivano i praticissimi, realisti, economi, laboriosi abitanti della capitale morale. E di questo clima diventa protagonista appunto Nico, inseguendo aspirazioni che gli sfuggono, spesso per non sapere esattamente cosa cogliere nel mondo dell'editoria nel quale si muove. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, e Paolo Corleone, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.